Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Prima favola dell'ottava notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Eritrea. Senza aspettar altro comandamento dalla signora, così allegramente incominciò. Favola prima. Tre forfanti s'accompagnano insieme per andare a Roma e per strada trovano una gemma e tra loro vengono in contenzione di chi esser debba. Un gentiluomo pronuncia dover essere di colui che farà la più poltronesca prodezza e la causa rimane indiscussa. Considerava tra me stessa, valorose donne, la gran varietà di stati nei quali oggidì e miseri mortali si trovano, e giudicai tra le umane creature non trovarsi il più sciagurato né il più tristo che viver poltronescamente, perciò che i poltroni, per la loro dapocaggine, sono biasimati da tutti e dimostrati a dito, e piuttosto vogliono vivere in stracci e in tormenti che dalla loro poltroneria rimuoversi, come avvenne a tre gran forfantoni, la natura di quali nel processo del mio ragionare a pieno intenderete. Dicovi dunque che nel territorio di Siena, non sono ancora passati 2 anni, si trovarono tre compagnoni giovani di età, ma vecchi ed eccellenti in ogni sorte di poltroneria che dir o immaginar si potesse. Di quai l'uno, per esser più dedito alla gola che gli altri, chiamavasi Gordino. L'altro, perché era da poco e infenticcio, tutti lo chiamavano Fentuzzo. Il terzo, perché aveva poco senno in zucca, si nominava Sennuccio. Trovandosi tutta tre un giorno a caso sopra un crucicchio e ragionando insieme, disse Fentuzzo: «Dove tenete il cammino vostro, fratelli?» A cui rispose Gordino: «Io me ne vo a Roma». «E per far che?» disse Fentuzzo. «Per trovare», disse Gordino, «alcuna ventura che facesse per me, a ciò che io viver potessi senza faticarmi». «E così ancora noi andremo», dissero i due compagni. «E quando il fosse di contento vostro», disse Sennuccio, «io volentieri verrei con voi». E i due compagni graziosamente l'accettarono e dieronsi la fede di mai non partirsi l'uno dall'altro sino a tanto che dentro di Roma giunti non fossero. Continuando tutta tre il loro cammino e ragionando di più cose insieme, Gordino abbassò gli occhi a terra e vide una gemma in oro che risplendeva sì che gli abbarbagliava il viso. Ma Fentuzzo prima l'aveva dimostrata a due compagni e Sennuccio la levò di terra e se la pose in dito. Laonde tra loro nacque grandissima differenza di chi esser dovesse. Gordino diceva dever esser sua, perché fu prima a vederla. Fentuzzo, anzi debbe toccare a me, diceva, perché innanzi di lui ve la mostrai. Anzi s'appartiene a me di ragione, diceva Sennuccio, perché io la levai da terra e me la posi in dito. Dimorando dunque i sciagurati in questa contenzione, né volendo l'uno uccidere all'altro, vennero ai fatti e si diedero per lo capo e per lo viso sì fatti punzoni che quasi da ogni parte pioveva il sangue. Avvenne che in quell'ora un messer Gavardo Colonna, uomo di gran maneggio e gentiluomo romano, veniva da un suo podere e ritornava a Roma. Gavardo, veduti dalla lunga i tre poltronzoni e sentito il loro rumore, si fermò e stette alquanto sopra di sé, temendo forte che non fussero assassini e l'uccidessero. E più volte volse volgere la briglia al cavallo e tornare dietro, ma pur fatto buon coraggio e assicuratosi, seguì il suo cammino e avvicinatosi a loro li salutò e disse: «Compagnoni, che contese sono coteste che fate tra voi?» Rispose Gordino: «Gentiluomo mio, il nostro contrasto è questo. Siam noi partiti dai propri alloggiamenti e a caso si siam trovati in strada e insieme accompagnati e ne andiamo a Roma, onde camminando e ragionando insieme io vidi in terra una bellissima gemma legata in oro la quale per ogni debito di ragione dovrebbe esser mia, perché primo la vidi. Ed io, disse Fentuzzo, primamente la dimostrai a loro, e per avergliela prima dimostrata mi pare che più a me appartenga che a loro. Ma Sennuccio, che non dormiva, disse: anzi, signor mio, la gemma debbe aspettare a me e non a loro, perciò che, senza che segno fatto mi fosse, la levai da terra e me la posi in dito, onde, non volendo l'uno cedere l'altro, siamo messi in gran pericolo di morte. Intesa che ebbe il signor Gavardo la causa della differenzia loro, disse: volete, compagnoni, rimettere le vostre differenzie in me, ch'io vedrò di adattarvi insieme? A cui tutta tre una voce risposero che sì, e si diedero la fede di stare a quello che per lo gentiluomo sarà determinato. Il gentiluomo, veduta la loro buona intenzione, disse: poscia che voi di comun volere v'avete messi nelle mani mie, volendo delle differenzie vostre io sia solo il diffinitore, io da voi due sol cose richieggio: prima, che mi date la gemma nelle mani; dopo, che ciascuno da per sé s'ingegna di fare alcuna opera poltronesca, e quello che in termine di 15 giorni la verrà fatta più disutile e vile, sarà della gemma vero patrone. I compagni s'accontentarono e dierongli la gemma nelle mani e andarono a Roma. Giunti che furono a Roma, si partirono, e uno andò in qua e l'altro in là, procurando ciascuno di loro fare secondo il suo potere alcuna solenne poltroneria, che fusse d'ogni laude e di perpetua memoria degna. Gordino trovò un patrone e con quello s'accordò, il qual, essendo un giorno in piazza, comprò alquanti fighi primari che vengono alla fine del mese di giugno, e diegli a Gordino che li custodisse fino a che andasse a casa. Gordino, che era solenne poltrone e parimente per natura molto goloso, prese uno di fighi e, tuttavia seguendo il padrone, ascosamente a poco lo mangiò. E perché il fico assai li piacque, il poltronzone continuò il costume suo e celatamente ne mangiò degli altri. Continuando adunque il gaglioffone la sua golosità, finalmente in bocca ne prese uno che era oltra misura grande. E temendo che il padrone se ne avvedesse, a guisa di simia il pose in un cantone della bocca e teneva la chiusa. Il patrone, voltatosi per avventura a dietro, vide Gordino e parevagli molto gonfio nella sinistra guancia, e guatatolo meglio nel viso, vide che nel vero era gonfiato molto, e addimandatolo che cosa avesse che così gonfio fusse, egli come mutolo nulla rispondeva, il che vedendo il patrone assai si maravigliò e disse: Gordino, apri la bocca, a ciò che io veda il difetto tuo per potergli meglio rimediare. Ma il tristo né aprì la bocca né parlar voleva, e quanto più il patrone si sforzava di fargli aprir la bocca, tanto maggiormente il gaglioffone stringeva i denti e la chiudeva. Avendo il patrone fatte diverse prove per farlo aprir la bocca, e vedendo che niuna li riusciva, a ciò che non gli intravenesse alcun male, lo menò in una barberia ivi vicina e mostrollo al ciruico, così dicendo: maestro, a questo mio servo ora è sopravvenuto un accidente molto bestiale, e come voi vedete egli ha gonfiata la guancia di maniera che egli non parla né può aprir la bocca. Temo che non si soffichi. Il ciruico destramente toccò la guancia e disse a Gordino: che senti tu, fratello? Ed egli nulla rispondeva. Apri la bocca! Ed egli punto non si muoveva. Il ciruico, vedendo non poter operare cosa alcuna con parole, mise mano a certi suoi ferri e cominciò a tentare se poteva aprirgli la bocca. Ma non vi fu mai modo né via che il poltronzone volesse aprirla. Parve al ciruico che fusse una postema a poco cresciuta e che ora fusse matura e a termine di scoppiare. E degli un taglio a ciò che la postema meglio si purgasse. Il poltronzone di Gordino, che aveva inteso il tutto, mai non si mosse, né disse pur un cito, anzi, come ben fondata torre, costante rimase. Il ciruico cominciò a stropicciare la guancia, a ciò che veder potesse che materia era quella che usciva fuori, ma invece di putrefazione e marcia usciva sangue vivo, misto col fico che con la bocca ancor stretto tenea. Il patrone, veduto il fico e considerata la poltroneria di Gordino, il fece medicare e, risanato, il mandò in malora. Fentuzzo, che in poltroneria non era inferiore a Gordino, avendo già dissipati alcuni pochi quattrini che si trovava a avere, né trovando per la sua dapocaggine persona alcuna a cui appoggiarsi potesse, andava mendicando all'uscio di questo e di quello, e dormiva or sotto un portico or sotto un altro, e alle volte alla foresta. Avenne che il Gaglioffo, una tra l'altre notti, capitò in un luogo tutto rovinato, ed entrandovi dentro trovò un letamaro con un poco di paglia, sopra del quale, meglio che puote, col corpo in su e con le gambe sbarrate si coricò, ed oppresso dal sonno si mise a dormire. Non stette molto che si levò un forcevole vento con tanta furia di pioggia e di tempesta che pareva che il mondo volesse venire a fine. Né mai rifinò tutta quella notte di piovere e lampeggiare. E perché l'albergo era mal coperto, una gocciola di pioggia che descendeva giù per uno pertugio gli percuoteva un occhio di maniera che lo destò, né lo lasciava posare. Il tristo, per la gran poltroneria che nel suo corpo regnava, non volse mai rimuoversi da quel luogo, né schiffare il pericolo che gli avvenne. Anzi, perseverando nella perfida ostinata sua volontà, lasciavasi miseramente percuotere l'occhio dalla gocciola, non altrimenti che stato fosse una dura e insensibil pietra. La gocciola, che di continuo cadeva giù dal tetto e percotevali l'occhio, fu di tanta freddezza che non venne giorno che il sciagurato perse la luce dell'occhio. Levatosi Fentuzzo la mattina, non molto per tempo per provvedere al viver suo, trovò mancargli la vista, ma perché pensava che sognasse, pose la mano all'occhio buono e serrollo. E allora conobbe l'altro esser privo di luce, di che oltremodo letizia ne prese, né cosa gli poteva venire, che più cara e più grata gli fosse, perciò che si persuadeva per tal poltronesca prodezza aver vinta la gemma. Sennuccio, che menava la vita sua con non minor poltroneria degli altri due, si maritò e prese per moglie una femmina che di gaglioffaria non era a lui inferiore, e Bedovina chiamavasi. Essendo ambiduoi una sera dopo cena a sedere appresso l'uscio della casa per prendere un poco d'ora, perciò che era la stagione del caldo, disse Sennuccio alla moglie: «Bedovina, chiudi l'uscio, che ormai è ora che se ne andiamo a riposare». A cui ella rispose: «Chiudetelo voi!». Stando amenduo in questo contrasto, nell'uno nell'altro volendo chiudere la porta, disse Sennuccio: «Bedovina, voglio che facciam patto tra noi. Chi sarà il primo a parlare, chiuda l'uscio». La femmina, che era poltrona per natura e ostinata per costumi, accontentò. Stando Sennuccio e Bedovina nella loro poltroneria, non osavano parlare per non cadere nella pena di chiuder l'uscio. La buona femmina, a cui già la festa rincresceva e il sonno l'aggravava, lasciò il marito sopra una panca e, spogliatasi la gonnella, se n'andò a letto. Non stette molto che indi passò per strada un servitore d'un gentiluomo che andava al suo albergo, e per sorte se gli era estinto il lume che nella lanterna portava, e veduto l'uscio di quella casetta aperto, entrò dentro e disse: «Olà, chi è qua? Accendetemi un poco questo lume». E niuno gli rispondeva. Andatosene il servitor più innanzi, trovò Sennuccio, che sopra la panca con gli occhi aperti riposava, e addimandatolo che gli accendesse il lume, egli nulla rispose. Il servitore, che pensava Sennuccio dormisse, il prese per mano e cominciollo a crollare dicendo: «Fratello, olà, che fai? Rispondi!». Ma Sennuccio, non che dormisse, ma per timore di incorrere nella pena di chiuder l'uscio, non volle parlare. Il servitore, fattosi alquanto innanzi, vide un poco di lume che dentro di un camerino luceva, ed entratovi dentro non vide persona alcuna se non Bedovina che sola nel letto giaceva. E chiamatala, e ben crollatala più volte, ella, per non cadere nella detta pena di chiuder l'uscio, non volse mai né muoversi né parlare. Il servitore, vedendola bella e taccagnotta, né voler parlare, pian piano se le coricò appresso, e posto la mano agli suoi ferri, che erano quasi arrugginiti, li pose nella fucina. Ma Bedovina, nulla dicendo ed ogni cosa dolcemente soffrendo, lasciò il giovane, tuttavia vedendo il marito, conseguire ogni suo piacere. Partito il servitore e avuta la buona sera, Bedovina si levò di letto, e andatasi all'uscio trovò il marito che non dormiva, e in modo di riprensione gli disse: «Oh, bella cosa di uomo! Voi avete lasciato tutta notte l'uscio aperto, lasciando licenziosamente venir gli uomini in casa senza fargli resistenza alcuna. Il sarebbe da darvi da bere con una scarpa rotta. Il poltronzone di Sennuccio, levatosi allora in piedi, invece di risposta disse: «Va, chiudi l'uscio, pazzerella che tu sii, or ti ho pur io aggiunta. Tu credevi farmi chiuderlo, e tu sei rimasta ingannata. In questo modo si castigano l'ostinate». Bedovina, che si vedeva aver perduto il pegno col marito, e parimente avuta la buona sera, tosto chiuse l'uscio, e col cornuto marito se n'andò a riposare. Venuto il giorno del termine, tutta tre s'appresentarono dinanzi a Gavardo, il quale, intese le sopraddette loro prodezze e considerate le loro ragioni, non volse far giudicio, pensando che sotto la cappa del cielo non si troverebbero tre altri poltronazzi che fussero simili a loro. E, presa la gemma, la gettò in terra, dicendo: chi la prendesse fusse sua. Fine della storia. Finita la piacevole favola, fu grandissima contenzione tra gli udienti. Alcuni dicevano Gordino meritar la gemma, altri Fentuzzo e altri Sennuccio, e allegavano fortissime ragioni. Ma la signora, che vedeva scorrere il tempo, volse che ad altro tempo la sentenza si riservasse, e comandò che ognuno tacesse ed Eritrea con l'enimma l'ordine seguisse, la quale tutta festevole e ridente così disse: «Ne l'onde salse in questa nostra parte, sopra d'un pal l'augel di vista adorno, tutto il dì posa, ed indi mai si parte, mirando i pesci che nuotano il giorno. E veggendone un buono sta in disparte, meglio aspettando e riguardando intorno. Giunge dopo la sera, oh bella prova, di vermi mangia che nel fango trova». L'enimma da Eritrea recitato a tutti sommamente piacque e niuno l'intese, salvo che il bembo, il quale disse essere un uccello molto codardo nomato per di giornata, e nei luoghi paludosi solamente abita, perciò che si pasce di carogne. E tanta è la poltroneria sua che tutto il dì posa sopra un palo e vagheggia i pesci che passano, e vedendone un grande non si muove, ma lascialo passare, aspettandone uno maggiore. E così dalla mattina fino alla sera se ne sta senza mangiare, e continuando sopraggiunge la notte, e incalciato dalla fame scende giù nel fango e va per la palude cercando i vermi, e di quelli si pasce. Eritrea, udita e intesa la dotta disposizione del suo enimma, ancor che noiosa le fusse, pur s'acquetò, aspettando luogo e tempo di rendergli il cambio. Fine della prima favola dell'ottava notte. Registrazione di Marzia Marianera.